di marci, ci guardi dai palazzi, non la rabbia in testa e adesso sono cazzi. Vita per voi, guerra per noi, figli di voi, guerrieri noi. Cazzo sociale, violenza nelle vene, prometti tu giustizia e